Radio 3 Lezioni di musica. Alessandro Solbiati, La novelletta, opera 21, numero 8 di Robert Schumann. Buongiorno, sono Alessandro Solbiati e oggi continuiamo e studiamo anche un breve discorso sulle novellette di Schumann, di Robert Schumann. Ricordo, se ne parlava ieri a proposito della quinta, che le novellette sono 8 brani, siamo all'opera 21, tenendo presente che dall'opera 1 fino all'opera 23 Robert Schumann ha scritto soltanto per pianoforte. Come mai ho scelto 2 novellette, la quinta ieri e l'ottava oggi? Perché sono brani di una dimensione sufficientemente ampia da permettere un discorso sulla forma, sul rapporto di Schumann con le strutture formali. Già ieri anticipavo, parlando della quinta novelletta, che la forma in Schumann è un vero e proprio, come dire, flusso di coscienza, e cioè che c'è un rapporto diretto tra i percorsi psichici e la partitura, c'è una specie di collegamento, un flusso di coscienza, la psiche passa direttamente in partitura, senza mediazioni, o meglio, le mediazioni esistono e sono le mediazioni fornite dalla storia, cioè le strutture medioformali, i periodi, le frasi, le cadenze naturalmente, ma non la costruzione completa. La costruzione totale della forma viene da una sorta di, come dire, di percorso diretto del compositore. Se questo discorso andava bene per l'ottava novelletta, per la quinta novelletta, chiedo scusa, va ancora meglio per l'ottava. L'ottava novelletta, che è l'ultima, è una specie di caso unico, secondo me addirittura nella storia della musica, e quindi in questo modo ve la presenterò. Devo dire anche che questa novelletta, per chiamarsi novelletta, in realtà dura circa 13 minuti, quindi è fatale che alla fine non avremo assolutamente l'ascolto integrale, ma dovrò rimandarvi come sempre al sito di Radio 3 per l'ascolto completo. Basti dire che si tratta di un brano di 562 battute, quindi evidentemente di un brano assolutamente molto ampio. Facciamo una cosa, ascoltiamo direttamente le prime 48 battute, ne parliamo dopo. Innanzitutto non si può non citare in questo caso la stratosferica esecuzione di Dino Ciani, che intimidisce chiunque come me deve magari mettere un dito sul pianoforte per fare degli esempi. È un vero e proprio ingresso in scena di enorme energia, c'è uno straordinario scoppio di energia in questo tema che esplode e che sembrerebbe essere un perfetto tema per una novelletta conclusiva. Io non so, non sappiamo nulla sul fatto che Schumann sapesse già che questa fosse l'ultima delle novellette, il suo rapporto con le forme complessive era piuttosto, come dire, improvvisativo, però tutto farebbe supporre che questo inizio sia esattamente per un brano che concluda in grande stile un'opera ampia come le 8 novellette. Ci sono 2 componenti da dire di queste 48 battute iniziali che passano in un soffio data la velocità. E sono 2 componenti tra di loro contrastanti, apparentemente, o forse un po' di fatto. Da una parte avrete sentito una attitudine al fugato, nel senso che il tema ha subito una vera e propria risposta, come in una fuga di Bach. E dopo entrerà al basso. E eccetera. In mezzo ci sono dei veri e propri piccoli divertimenti, addirittura una progressione, sembra veramente vagamente Bach da una parte, e poi il tema riesplode. Però questa componente, diciamo, bacchiana è controbilanciata da questa inquietudine estrema del procedere schumaniano, e ne faccio subito un esempio. Se io faccio il tema iniziale e arrivo fino a qua, se dovessi, come dire, armonizzarlo come una persona normale, dovrei fare una cosa di questo genere. Cioè, bello tranquillo. Lui fa una cosa di questo genere. Cioè, inanella ben 5 accordi di settima diminuita consecutivi, 5 accordi di tensione, che naturalmente sono la cui tensione è accentuata dall'articolazione, che è la mia è meno veloce di quella di Nociane, ma questo andamento a sestina ondata, su e giù, che accentua ulteriormente la tensione delle settime diminuite. Faccio anche notare, per chi così avesse conoscenza diretta di scrittura musicale, che la novelletta è in fa diesis minore, ma questo inizio non è affatto, non attacca in fa diesis minore, perché incomincia con do diesis, sol diesis, la diesis, che fa molto più sol diesis minore che fa diesis minore, quindi incomincia fuori tono, e soprattutto ha un inizio tesissimo armonicamente, che fa pugni con l'idea di fare quasi un fugato iniziale. Andiamo avanti, perché il viaggio è lungo e quindi non mi devo perdere per strada. Al termine, avete sentito il finale assolutamente perorante, con una grande cadenza di questa zona formale. A questa zona viene contrapposto un elemento che Schumann in questo caso definisce. Di solito quando i suoi episodi non hanno una definizione formale. Qui c'è scritto trio primo. Ascoltiamolo direttamente. Soltanto un breve commento. Innanzitutto è evidente il contrasto totale di clima alla perorazione potente, energica della prima parte, risponde a quella perorazione, risponde questa leggerezza estrema, il puntato, lo staccato, scherzoso, un po' danzante. Ecco, sulla parola puntato vuol dire ta-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Questo è il ritmo puntato, che è un ritmo che Schumann adora e che qui utilizza secondo una accezione, che è quella appunto della leggerezza. Il fatto che questo episodio abbia un contrasto totale di clima con la prima parte non deve stupire in Schumann, perché non ha bisogno di coerenza tra un elemento e l'altro, e qui incomincia il discorso sul flusso di coscienza del suo procedere formale, per cui l'accostamento, ovvero la coerenza, è nel totale, ma non è nei singoli accostamenti. Tra l'altro anche un accostamento tonale netto, perché si finiva in fa diesis minore, si attacca in re bemolle maggiore, che inarmonicamente è la sua dominante, però è una tonalità totalmente lontana. Ma andiamo avanti. Alla fine di questa zona scherzosa c'è una ripresa dell'elemento iniziale. L'ascoltiamolo. Sembrerebbe tutto normale, fino a qui un ascoltatore è abbastanza rassicurato, cioè ritiene di essere in una struttura ABA, ha sentito il grande tema iniziale, poi ha sentito quella parte centrale definita ordinatamente trio, come se fosse uno scherzo col trio in mezzo, e sente la ripresa. Come dire, a questo punto potremmo essere rassicurati, e invece vi devo dire che qui questa ripresa finisce battuta a 128, sulle, ripeto, 562 totali, e questo tema non tornerà mai più. Questo tema, che sembrava così adatto a concludere un'opera, viene perso per strada. C'è solo un esempio nella storia della musica così potente di enorme tema iniziale che poi non torna mai più, ed è il ben noto, il notissimo inizio dello Zarathustra di Richard Strauss, ma là questo avveniva per un precisissimo progetto nietzschiano-straussiano, diciamo, cioè quell'esplodere della potenza della natura poi doveva evolvere secondo i principi filosofici di Nietzsche. Qua invece questo tema si perde per tutt'altri motivi, e questi motivi sono esattamente l'argomento principale della mia conversazione. Ma andiamo con ordine. Che cosa segue a questa ripresa? Segue un'altra pagina ordinatamente definita trio secondo. Ascoltiamola. Thank you. anche in questo caso siamo di fronte al puntato schumaniano, pam pam param pam pam. Ma qui è un puntato che ha cambiato di significato, cioè un puntato estremamente eroico. Quindi anche qui sembrerebbe che tutto sia ordinato, cioè il grande tema perorante, un trio primo definito ordinatamente trio primo con un puntato scherzoso e danzante, una ripresa, un trio secondo con un altro puntato di carattere diverso, come se si alternassero personaggi diversi. Ma ripeto, la vera cosa è che il tema principale non tornerà più. Come mai? Che succede? Sentiamo che cosa succede nella coda di questo trio secondo che abbiamo appena ascoltato e poi lo commentiamo. Che è successo? È successo che nell'ambito della coda di questo trio secondo, su questo ritmo che continua pam param pam pam param pam pam, che è quello di prima, si appoggia una melodia a valori molto lenti. Voi non vedete la partitura, vi avverto io che qui Schumann scrive Stimme aus der Ferne, cioè una voce da lontano. Che cos'è? Qui dovrebbe venire in mente a qualcuno, o meglio, innanzitutto, da dove salta fuori? Non so se vi siete accorti, ma in questa coda di trio secondo la parte superiore faceva... cioè la scala... ma questa melodia è esattamente così... meglio, ve la suono senza ritmo. È esattamente la stessa scala. E qui ci deve venire in mente una cosa meravigliosa. Nell'opera precedente, cioè l'umoresca opera 20, a un certo punto Schumann fa una cosa di una modernità sconvolgente che potrebbe succedere oggi. Cioè inserisce nella parte pianistica un terzo rigo in mezzo, con scritta una sequenza melodica a valori lenti e con l'indicazione innere Stimme, cioè voce interiore, voce intima. Che è un'indicazione meravigliosa, un po' da pelle d'oca, ed è, guarda caso, esattamente questa sequenza melodica, in un'altra tonalità, ma non importa. La continuazione è leggermente diversa, però l'attacco... Lui qui aveva messo una nota straordinaria, cioè dice... questa voce interiore non deve essere suonata. Qui l'esecutore deve saper, tra virgolette, leggere tra le linee. Che cosa diavolo voglia dire non si sa. Cioè l'esecutore suona una parte pianistica e deve in qualche modo immaginare, pensare, sognare, ma non cantare, una sequenza melodica che è quella che ha generato la musica intorno, ma non compare, come se ne fosse la sorgente segreta. Guarda caso, nell'opera successiva, nelle novellette, è arrivato lì quella scala discendente... suggerisce ed ecco il flusso di coscienza, non ha bisogno di coerenza perché è un comporre in presa diretta, emerge il ricordo di quella voce, una voce che viene da lontano. E il compositore dimentica tutto, dimentica che forma stava costruendo e insegue la voce che viene da lontano e infatti nella parte successiva quella linea che qui era fatta a valori molto lenti, quasi non ritmici, prende un vero e proprio, come dire, ruolo, una costruzione di vero e proprio tema. Ascoltiamolo. Qualsiasi commentatore, come sono io in questo caso, mentre ascolta questa musica, trattiene a stento la commozione, insomma. Che cosa succede? Succede che insegue una melodia, e questa melodia è incastonata nel fatto che poi, come avete sentito, riprende la coda di trio secondo. Come dire, saluta la melodia venuta da lontano e conclude quel trio secondo in cui ha aperto una finestra su un ricordo. La cosa molto curiosa è che nel momento in cui questo tema viene cantato, come avete sentito all'inizio di questo ascolto, lui mette, Schumann mette un'indicazione, dovrei dire quasi comica, cioè scrive continuazione, Fortsetzung, continuazione. E che senso ha scrivere continuazione? Che scoperta? È la musica che va avanti, no? Mentre prima era ordinatamente classico, trio primo, ripresa, trio secondo, qua dice continuazione, l'indicazione è semplice cantando assai. In traduzione, lui scrive in tedesco. Continuazione non ha nessun senso, vuol dire la musica va avanti, ma evidentemente continuazione vuol dire la continuazione del compositore che sta seguendo la sua memoria, il suo eco, il suo ricordo, quella sequenza. E come avete sentito, a quel punto trio secondo finisce ed è a questo punto che Schumann si è dimenticato del tema principale della novelletta. Se voi ascoltate le novellette in concerto, arrivati a questo punto, sentite quello che sta per succedere adesso, ve lo facciamo sentire quasi subito, e se siete un po' distratti, pensate che sia la nona novelletta, che naturalmente non esiste, perché improvvisamente esplode un elemento completamente diverso. Ascoltiamolo. Effettivamente sembra l'inizio di un altro pezzo, è completamente staccato, non so se vi ricordate, nell'esempio precedente si veniva pianissimo, con corona, scivolava via, ed era la fine di quel trio secondo con l'interno l'eco della melodia da lontano, e qui attacca questa cosa potentissima. Il fatto è che lui mette un'indicazione ancora più esilarante della precedente, l'indicazione che mette è continuazione e fine. Ora, a parte il fatto che nessun compositore si è mai commentato in questo modo, come dire, continuazione e fine, ma se uno scrive e fine vorrebbe dire che il pezzo sta per finire. Allora vi avverto che questo elemento scoppia a battuta 283, che è poco di più o quasi esattamente la metà del totale. Il pezzo finirà a battuta 562. Che diavolo vuol dire continuazione e fine? Vuol dire una cosa, vuol dire che Schumann, arrivato a questo punto, aveva perduto un'idea di struttura complessiva che all'inizio sembrava avere fortemente in quell'alternanza di tema, trio primo, tema, trio secondo. L'emergere della voce da lontano gli ha fatto, come dire, perdere la bussola e c'è quell'eco che dovrà inseguire. Quando crede di aver chiuso tutto, fa esplodere questo elemento. Avrete sentito, questo elemento è fatto di due cose. Questi blocchi accordali iniziali, sì, è vero, sono leggermente intimidito dal suonarli perché l'esecuzione di Nociani è troppo, troppo bella. E c'è un secondo elemento. Molto più polifonico, molto più piano. Più complesso, sono linee sovrapposte, il primo elemento è fatto di blocchettoni accordali, il secondo è fatto di linee molto più complesse, una specie di accostamento florestano-eusebio, il florestano vitale degli accordoni e questa polifonia ricca un po' a tutto il registro di queste linee che si inseguono. Non c'è tempo per seguire interamente quello che succede in questa zona. Questa zona è molto ampia, è sostanzialmente la metà del pezzo totale e, ripeto, per l'ennesima volta, ci si è dimenticati completamente di da dove si era partiti questo pezzo. E il punto di partenza aveva una tale importanza da sembrare essere un grande tema trovato dall'autore. In questo lungo flusso in cui si alternano gli episodi di blocchi accordali e queste linee di cui parlavo, si arriva a un certo punto, e però vi devo dire un bel po' di battute dopo per la precisione, lo sto cercando anch'io, a battuta 447, il che vuol dire circa 160 battute dopo, succede una cosa. Noi a questo punto ci siamo dimenticati anche della voce che viene da lontano, ma improvvisamente succede questo. Ascoltiamo. E da qui si riparte. Che cosa è successo? Che praticamente al centro di questa grande zona formale, i numeri sono da battuta 283 alla fine 562, più o meno la metà, non ho fatto i conti esatti, cioè a battuta 440, 47 per la precisione, portato da un grosso crescendo, esplode, questa volta perorato, cantato, quasi urlato all'inizio, l'elemento della inner stimme, l'elemento della voce da lontano, che a questo punto non è affatto da lontano, ma è gridata in modo lirico. Però avete sentito che si spegne, va nel piano, diventa innig, con intimo sentimento, questa volta scritto in italiano, e qui viene salutata per sempre. Ripartono le linee, riparte l'elemento degli accordi, in questo modo finirà la novelletta, ma in questa novelletta rimane per sempre una grande domanda: che cos'è questa melodia che emerge e che fa perdere la bussola formale a Schumann, cambiandogli completamente le proporzioni, l'alternanza degli elementi? È il suo dialogo col comporre, che è un dialogo in presa diretta, per cui la forma, flusso di coscienza, il rapporto diretto, insisto, della psiche con la partitura, lo conduce a seguire i propri sogni, i propri fantasmi, come dire, lasciatemi dire, infischiandosene dell'ordine totale. L'ordine sta nella bellezza di quanto fa. E in questo modo si chiudono le novellette e si chiude anche il mio discorso sulle strutture formali schumaniane, così, così sconvolgenti, a volte così sconcertanti, non sconvolgenti, qualora cercassimo di ritrovare l'ordine che vogliamo noi. Siamo noi che dobbiamo seguire lui e non è lui che deve seguire un ordine precostituito. L'altra volta, ieri, citavo una frase di un'amica che diceva che l'ascolto di Schumann le sembrava, ascoltando Schumann le sembrava di entrare in una casa in disordine. Ecco, dobbiamo accettare questo disordine, perché è un disordine che porta a una ricchezza espressiva straordinaria, rarissimamente raggiunta nella storia della musica. L'ascolto tale non è possibile, quindi vi rimando ancora al sito di Radio 3 per l'ascolto dell'ottava novelletta di Robert Schumann. Grazie, buon ascolto. Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare le novellette Opera 21 di Robert Schumann dal sito di Radio 3 cliccando su Classica Radio 3.